Gente che saluta solo con i guanti, qua non si può tacere, deve andare avanti, provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti. Buonasera a tutti e benvenuti alle buonanotti di allineamenti. Qui è Gas che vi parla come sempre e spero che la vostra settimana stia andando molto bene, di sicuro che la giornata sia andata bene. Qua concludiamo la programmazione della radio, diamo la buonanotte attraverso la musica e la poesia, la letteratura, la scrittura, un po' quello che abbiamo voglia di portare. Questa settimana stiamo facendo un excursus tra proprio la fusione di queste due parti che compongono il nostro programma, quindi le canzoni e la letteratura, e lo stiamo facendo andando a vedere come si sono contaminate, fuse, incontrate. Domenica abbiamo visto Jovanotti, o comunque la linea d'ombra come linea guida della nostra prima trasmissione della serata. Oggi invece vi voglio far vedere come i musicisti si sono ispirati agli scrittori, come gli scrittori sono diventati musicisti, cioè, diciamo, continuiamo ancora questo percorso di fusione. Da dove lo facciamo? Con una canzone che si chiama Le storie che non conosci, ed è stata una canzone scritta nel 2015 apposta per un progetto organizzato dall'Associazione Italiana Editori, che voleva proprio andare a far vedere come le due arti, la letteratura, la poesia e la musica, sono profondamente influenzate, ed è andata a raccogliere una serie di spunti presi dalla letteratura che sono stati pubblicati nel 2015 grazie alla collaborazione di Francesco Guccini, Samuele Bersani e Pacifico. Io vi lascio il brano e poi vi farò ascoltare un breve pezzo, una poesia o una canzone, poi vedremo di stabilire cosa ne pensate voi e che cosa ne pensate di questa fusione. Le storie che non conosci, canta Samuele Bersani. Ha dimenticato, non si sa se ti ha lasciato andare o se in realtà ti sta cercando ancora nella borsa tra patente e occhiali. Hai dedica con data, se è un regalo col prezzo ben nascosto dietro un adesivo, è l'aria di chi non ha un letto fisso ma si appoggia in giro. Sarai mai stato in metropolitana, su una corriera sudamericana, in uno zaino pieno a dondolarti sopra un treno, arrotolato in tasca in un cappotto, chiuso nel buio di un cassetto. Pietrificata del secolo scorso. Ci sono dei graffiti a coprire ogni fianco, spirali ipnotiche a matita in alto e poche righe sopravvissute a un pennarello giallo. Sarai mai stato a rischio di bruciarti o su una mensola di impolverarti e riscoperto da qualcuno che non ti aspettavi. Lo hai fatto uscire da un periodo nero, uscire fuori ancora intero. Una storia che non conosci non è mai di seconda mano, è come un viaggio improvvisato a chilometraggi limitato. Una storia in cui tu ti specchi con i tuoi occhi da marziano, è come un stampare nel mese di agosto di un anno povero con poco inchiostro, un sangue nobile che colora ogni tua parola. Hai mai viaggiato tutta una notte attraversando un temporale forte? Ti sei trovato aperto ad asciugare sotto il sole? Ho illuminato fino alla mattina da una candela o da una pila. Una storia che non conosci non è mai di seconda mano, è come un viaggio improvvisato a chilometraggi limitato. Una storia in cui tu ti specchi con i tuoi occhi da marziano, è come una lanterna magica che non si ferma. Le storie che non conosci non sono mai di seconda mano. Che prende i suoi spunti da un sacco di raccolte italiane, classiche italiane, ha una canzone che è diventata un testo di una raccolta di poesie, Cose preziose, Chaos One. Nel buio tu cammini con me, tu sei il motivo perché io sopravvivo, perché mi hai dato un obiettivo finché lacrime rosse non cadranno sull'asfalto. Vedrò il tuo volto, saprò perché mi hai scelto. Nel buio tu cammini con me, tu sei il motivo per cui sopravvivo, perché mi hai dato un obiettivo finché le mie battaglie concluse non saranno. Ogni tuo sguardo, ogni frase, cose preziose. A 16 anni stavo messo male, vedevo il sole splendere dalla corsia di un ospedale. Uscendo toccai il fondo, continuai scavando, ero allo sbando, tiravo a campare fumando. Non scorderò mai quel periodo in cui non c'eri, quando l'ultimo atto di fatto era il primo dei miei pensieri. Giorni interi passando tra incubi e deliri, cercando la verità sul fondo di troppi bicchieri. Ricordo con precisione l'istante, il primo contatto, la promessa che feci, che ancora rispetto, l'episodio più importante della mia esistenza. La conoscenza che mi guida in ogni circostanza. Con te, sempre insieme, in ogni situazione, mi hai ceduto ogni cosa che ho avuto, compreso il nome. So bene che il mio debito è immenso, lacrime spese cercando un senso. Cose preziose. Nel buio tu cammini con me. Tu sei il motivo per cui sopravvivo, perché mi hai dato un obiettivo finché lacrime rosse non cadranno sull'asfalto. Vedrò il tuo volto, saprò perché mi hai scelto. Nel buio tu cammini con me, tu sei il motivo per cui sopravvivo, perché mi hai dato un obiettivo finché le mie battaglie non saranno concluse. Ogni tuo sguardo, ogni frase, cose preziose. Oggi combatto per me stesso, adesso un obiettivo, sopravvivo, aspetto il passo successivo, attratto dalla concreta presenza di una visione la cui espressione è l'insieme di quattro discipline. Voci lontane che ascolto, rivolto in alto, attendo che ogni quesito sia risolto, vedrò il tuo volto, ricorderò ogni frase, in ogni sguardo mistico, perché sei vivo ancora. Perché sei vivo ancora, è solo tempo in prestito. Sono dettagli, talvolta abbagli, a volte tagli sopra i polsi affermano che sono sbagli. Passi falsi fatti in luoghi silenziosi, sono le nostre anime unite come in simbiosi. Occhi chiusi, scegli la giusta direzione, qualcosa sopravvive anche se è a rischio di estinzione. So bene che il mio debito è immenso, lacrime spese cercando un senso. Cose preziose. Nuovi orizzonti, nuove sfide. È un ciclo che si conclude, nuove strade per chi procede sull'asfalto. Il buio avvolge il resto del cammino. Hai scelto il mio destino e adesso portami lontano. Lascio che sia tu a guidarmi e condurmi altrove, perché mi aspettano altri dubbi, nuove insidie e altre prove. Saprò sentire la tua voce anche quando tace. Sarò capace di inoltrarmi in posti senza luce, in mezzo a volti mai visti, trucchi tra illusionisti. Ricorda, questo esiste solo perché esisti. Manifesto un legame profondo dell'oceano, il suono che mi accompagna oltre la terra di nessuno. Insieme camminiamo nel buio fino alla fine, perché è tempo che il mio viaggio arrivi a destinazione. So bene che il mio debito è immenso, lacrime spese cercando un senso. Spero che vi sia piaciuta anche questa puntata, anche questa serata, anche questa giornata. Spero che il Chaos One e Samuele Bersani siano state qualcosa che già conoscevate nella vostra vita. Se non le conoscevate, spero che d'ora in poi le apprezzerete. Vi auguro una buonissima serata. Questa era la buonanotte di Allineamenti su Ciao Radio Como, che ringraziamo sempre per la disponibilità, la presenza che hanno sempre nei nostri confronti. Diamo un grande abbraccio anche a Mendo, che è in Brasile e tornerà chissà quando. E intanto domani ci sarà Marco Catania. Buona serata a tutti. Saluta solo con i guanti, qua non si può tacere, deve andare avanti. Provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di Allineamenti.